Mix 24 di Giovanni Minoli. Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge al Senato per istituire una commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Tutte le forze politiche chiedono chiarezza sulla vicenda. Ma sta suscitando polemiche all'interno dello stesso PD. La minoranza è scettica sullo strumento della commissione. Diciamo sì alla commissione d'inchiesta che è stata chiesta sul sistema del credito negli ultimi 10 anni. La commissione d'inchiesta, posso dire una verità scomoda? Non serve. È a questo che serve la commissione d'inchiesta. Servirà a dare chiarezza e a fare trasparenza. Banca d'Italia ha tutti gli elementi. Se glieli si chiede domani, senza commissione d'inchiesta, domani vengono resi pubblici i documenti. Dopo aver accettato la mia proposta di commissione d'inchiesta non se ne parla più. Renzi ormai se n'è dimenticato. Ecco, onorevole Brunetta, buongiorno. Abbiamo sentito Renzi, dopo aver accettato la sua proposta, dice lei, se n'è dimenticato, cioè non si farà? Ma intanto buongiorno. Buongiorno. Per quello che ha detto ieri in Parlamento ricomincio ad avere qualche speranza, perché ieri Renzi in Parlamento ha detto delle cose molto importanti. Ha parlato di Deutsche Bank. Certo. Che all'origine della crisi bancaria di queste ultime settimane e mesi non ci sono le banche italiane, pur prese di mira, ma c'è la Deutsche Bank, che è un colosso pieno di titoli tossici in pancia, altro che banche italiane piene di titoli del debito pubblico. Infatti lei, nell'illustrazione della sua proposta di legge, dice che il governo tedesco e francese sono responsabili morali della crisi del credito. Perché? Ma non solo, la storia viene da lontano. Io parlo del 2011. Ricordiamo che la Deutsche Bank è anche all'origine della tempesta perfetta del 2011, perché iniziò Deutsche Bank vendendo 8 miliardi di titoli del debito pubblico italiano in pochi mesi e riuscì ad innescare la tempesta perfetta che portò poi alla crisi dello spread con certo. Tutto quello che è successo. Che è successo era dopo. Deutsche Bank, e Deutsche Bank, ricordiamolo, è anche la banca di Volkswagen. Deutsche Bank è anche la banca delle materie prime. Ma che cosa dovrebbe servire questa commissione d'inchiesta? Beh, far chiarezza su quello che è successo dal 2011 ad oggi in Europa, in Italia, che è successo sulla finanza, sui mercati. Vede, la crisi dello spread del 2011, sulla quale stava per saltare l'euro e stava per saltare l'Europa, certo. Ed è saltata la democrazia in Italia, ha le stesse caratteristiche della crisi di oggi, solo che allora venivano presi di mira i debiti sovrani. Oggi vengono prese di mira le banche, ecco, due facce della stessa medaglia. Appunto, a proposito di banche e di effetti che ci saranno adesso sui conti delle banche, lei è contro i bail-in, ma quando però si usavano i soldi... No, non ho detto questo, mi scusi, lei parte da una premessa sbagliata. Io ho scritto... Lei è favorevole o contrario al bail-in? Io ho scritto nella mia mozione che il bail-in, se non è accompagnato da un parallelo sistema di garanzie europee, come prevedeva l'Unione Bancaria, vale a dire questo grande trattato sull'Unione Bancaria, il bail-in è pericoloso. No, ma dico però... Oggi il bail-in è stato approvato in Europa e in Italia da tutti, anche da voi. No, poi adesso, Brunetta. Dottor Minoli, la prima caratteristica di un giornalista è quella di dire le cose giuste. Noi abbiamo votato contro, ma cosa sta dicendo? Cioè, voi in Europa noi abbiamo votato contro in Italia. Dottor Minoli, non cambi le carte in tavola, io per non favore. Le cambio. Noi abbiamo votato contro in Italia in Europa, alla direttiva. Noi in abbiamo Europa, votato contro in Italia. In Europa, noi abbiamo votato contro in Italia. Se vuole andiamo avanti fino a domani mattina. Cambi le carte in tavola, per favore. Onorevole Brunetta. Onorevole Minoli. Anche lei. No, senta, io le sto dicendo. Abbiamo votato contro. Sta parlando col presidente dei deputati italiani. Appunto, io le sto chiedendo. Le sto ma no, ma mi dia una risposta. Abbiamo votato contro. E in Europa Europa avete votato a favore o no? In Italia abbiamo votato contro. E in Europa? E allora, in Italia abbiamo votato contro, andiamo avanti fino a domani mattina. No, però se lei capisce... No, se lei capisce, lei deve capire. Ma io provo a capire e l'ascolto allora, con molta attenzione e se non urla noi è meglio. Abbiamo votato contro. Se non urla, direttiva, non siamo in un talk show alla televisione. Andiamo avanti fino a domani mattina, dottor Minoli, guardi che ma io non provo a fare niente. Io le faccio solo una piccola domanda. Le chiedo se in Europa avete... Premesso che avete votato contro l'Italia, in Europa come avete votato? Domanda. Me lo può dire? Me lo può dire a favore o contro? Il processo di costruzione di una direttiva, dottor Minoli, sì, è complicato. Sì, lo so bene. Benissimo, se vuole glielo spiego, no, glielo illustro lungamente. E per cui noi, il processo alla fine arriva come decreto legislativo in Italia nel mese di novembre dell'anno scorso, noi votiamo contro e noi abbiamo detto in tutti i nostri atti parlamentari che questo provvedimento doveva essere accompagnato da un parallelo sistema di garanzie europee sui depositi questo bancari. L'ha detto e io l'ho capito che non c'è stato il risultato qual è? Che il combinato disposto dei decreti del governo di salvataggio delle quattro banche a partire dall'Etruria che ha destabilizzato il sistema bancario perché ha ammesso un tasso di svalutazione delle sofferenze fuori mercato dell'83% contro un valore medio di fatto del mercato onorevole del Brunetta, 50. Onorevole Brunetta. Del 50. Onorevole Minoli, se lei non lascia parlare, onorevole. Se mi lascia parlare, altrimenti questa intervista non ha alcun senso. Ma guardi, mi pare che lei sta parlando quanto vuole. No, se, non sta parlando quanto vuole, sto finendo di parlare domande. E lei mi interrompe continuamente. No, io veramente le ho fatto una domanda, non mi ha voluto rispondere. Ma come non voleva rispondere? Lei ha fatto una domanda sbagliata. No, io ne ho fatto una giusta, le ho chiesto cosa ha fatto in Europa. Lei ha fatto una domanda sbagliata. Le domande, non ci sono le domande giuste, le domande sbagliate. Ci sono le domande. Una domanda sbagliata, se vuole, ma se non urla è meglio, non c'è bisogno, non siamo in un talk show dove ma lei è abituato a urlare. Dottor Minoli, non siamo alla RAI, no, dottor Minoli, non c'entra? Siamo alla RAI della Bignardi. Ma non siamo alla RAI, siamo a una radio del Sole 24 Ore. Penso anch'io che la RAI della Bignardi. Dottor Minoli, lei ha una arroganza in questo momento inaccettabile, ma forse non si accorge della sua. Le no, chiedo... no va mai bene, pari alla sua, dottor Minoli. Allora siamo mai uno pari a uno. Se vuole che andiamo avanti, andiamo avanti. Se vuole continuare così, continuiamo così. Se lei mi fa fare le domande, prova a rispondere. No, lei parte da domande sbagliate. Fate le domande, mi fa fare le domande. Posso? Posso? Sì, se però non le fa sbagliate, perché ma se lei insomma, parte da domande sbagliate... Perché non fa una cosa? Si faccia una domanda e si dia una risposta, che è la cosa migliore. Io l'ascolto e lavoro meno. Sto chiedendo di fare le domande. Se lei parte da domande sbagliate, io le dico che le domande sono sbagliate. Sì, ma se lei non risponde alla domanda ma che no, io non rispondo alle domande sbagliate. Dove erano le cose? Dico che sono sbagliate. Dove erano le dico che sono sbagliate. Guardi no, che ma basta, Brunetta, basta. Basta lei, dai. Minoli. Basta no, lei, Minoli. Mia. Basta lei, Minoli. Dove erano la Consob e la Banca d'Italia? È quello che io ho chiesto nella mia richiesta di commissione parlamentare. Dottor Minoli È mitomane proprio cioè... No, lei è un mitomane è anche scortese ma non è io anche sono offensivo, guardi. È anche offensivo ma non importa adesso ho capito perché l'hanno cacciata dalla RAI. No, non mi hanno cacciato dalla RAI, mi dispiace, è mal informato. È mal informato, lei si deve informare prima di dire le cose. Sì. Deve lei, informarsi, guardi, non sa niente. Un piede sbagliato se non sa mattinata, niente è un problema. Ha preso un piede sbagliato questa no, mattinata, lei... dottor Minoli. Ha preso un piede sbagliato questa mattinata con me. Senta, dove erano la Consob a Banca d'Italia? È quello che ho chiesto io. Ma io glielo chiedo a lei se mi dà è una risposta. È quello che ho chiesto io nella mia commissione. Bravo. La domanda di commissione parlamentare d'inchiesta. È stata la mia domanda base. È fuori proprio, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, dottor Minoli. Senta. La sua ignoranza veramente è pari alla sua arroganza. No, la sua ignoranza e la sua arroganza, dottor Minoli. Bene, io le sto ringrazio. Dicendo che quando ho chiesto alla commissione d'inchiesta, io ho fatto riferimento a Consob e Banca d'Italia, perché la Commissione parlamentare d'inchiesta deve appurare cosa hanno fatto in tutti questi anni con Sob e Banca d'Italia. Vede che le rispondo? E se lei avesse letto la mia richiesta di commissione parlamentare d'inchiesta, queste erano le domande insite dentro Grazie. Quella proposta di legge. Grazie, grazie onorevole. Grazie, buon lavoro a lei. Buon lavoro a lei. Mi sembra che sia difficile ottenere una risposta a una domanda semplice. In Europa cosa avete fatto? Avete votato a favore o contro? Punto. Vabbè, insomma. Secondo te servirebbe questa commissione, Mario, o no? In un sistema politico normale sì, però come abbiamo visto in questo momento nulla è normale, quindi l'esito è che la buttano in politica. Uno direbbe ma quella è politica, certamente, però ho delle riserve, perché io ho visto moltissime commissioni d'inchiesta all'opera sulle quali insomma il rischio che non capiti niente, cioè. C'è il rischio che non capiti niente. La storia della Repubblica Italiana comincia con Caporetto, con la commissione d'inchiesta su Caporetto, vorrei dire. Io ho fatto una paginata intera. C'è un nostro ascoltatore che ci scrive: anche il Dalai Lama si incazzerebbe. No, ma però non ci siamo mica arrabbiati. No, io non mi arrabbio mai, solo che domanda, risposta. Non ho capito. Il Dalai Lama si arrabbia con te o con Brunetta? No, qui lui dice con Brunetta, poi non lo so. Non so, forse anche con me. Quando l'ho intervistato, però non si è arrabbiato il Dalai Lama. No. No. Quindi Mario, per chiudere? No, per chiudere dico questo: la commissione d'inchiesta lavorerebbe tutta la 17ª legislatura, perché questa è in una delle quattro, perché ce ne sono quattro di proposte di legge per istituirla, e immaginate quel che accadrebbe, cioè in piena campagna elettorale, e siccome la commissione d'inchiesta ha come suo specifico obiettivo quello del raggiungimento della verità, ora una verità piegata alle ragioni di un voto, diciamo, imminente, insomma, è una verità distorta. Vabbè, a proposito di questo tema, Alessandro De Nicola, che è un avvocato, presidente dell'Adam Smith Society, De Nicola è stato uno dei più importanti avvocati d'affari in Italia. Ecco, rimborserebbe lei gli obbligazionisti delle quattro banche che hanno fatto il crack? Quelli che sono stati truffati sicuramente sì, e per provare la truffa non ci dovrebbe essere un ostacolo fortissimo, basta provare ad esempio che sono stati convinti dicendo che era un investimento sicuro. Ecco, ma avvocato Nicola, la Costituzione però dice che bisogna tutelare il risparmio. Errantibus non dormientibus iura succurrunt, cioè la legge soccorre quelli che sbagliano ma non quelli che dormono. Senta, ma il risparmiatore poco informato o male informato, magari ingenuo, non ha diritto a nessun risarcimento? Chi sbaglia perché è indotto a sbagliare anche per la scarsa informazione che ha assolutamente diritto al rimborso. Io di questo sono convinto. E lì sbagliano le banche. Già adesso la legge dice che ci vuole una capacità di discernere, di capire. Lo dice, ma fino a che non c'era il bail-in faceva paura a nessuno. Le banche da una parte informavano poco e i sottoscrittori si sentivano sicuri. Le faccio ascoltare la testimonianza della vedova di Luigino D'Angelo, il pensionato che si è tolto la vita dopo aver perso tutti i suoi risparmi alla Banca Etruria. Io rivoglio i miei soldi, anche il costo di rimetterci. Mi ha detto va bene, non mi volete da tutto? Mi dà il 70%, ma contento, non c'era verso. Da quel momento un'ossessione. Ripeteva di continuo: non sono stato in grado di tutelare la mia famiglia. Ha detto: non ce la faccio io a reggere una situazione del genere. E 10 minuti dopo non c'era più. Si è ucciso, rivoleva solo i suoi soldi, ma niente. In banca che cosa avrebbero dovuto dirgli? Perché la verità è che i suoi soldi non c'erano più. Certo che non c'erano più. Perché non l'hanno detto? Un arbitro che dirà se l'investimento è stato, come dire, indotto in modo sbagliato o meno. Se è stato indotto in modo sbagliato, altro che il 70%, il 100%, ma deve esserci qualcuno che lo dice. Senta, e chi? L'ANAC, che è stata designata apposta a un collegio di arbitri molto preparati e sono anche certo che avrà un occhio di riguardo verso i risparmiatori. Senta, lei è favorevole al bail-in? Io penso che sia giusto. Ma le piace così? Perché il bail-in è curioso. L'hanno votato tutti, l'hanno approvato in Europa, in Italia, adesso non è figlio di nessuno. Perfino la Banca d'Italia, insomma, prende un po' le distanze. La vittoria a molti padri, la sconfitta è sempre orfana. Adesso questa cosa non piace, quindi nessuno se ne prende la responsabilità. La parte che a me piace molto meno del bail-in è quella che riguarda i depositi, perché proprio da un punto di vista concettuale, un deposito è un deposito, è un affidamento. Certo, non è un investimento a rischio. Non è un investimento. La cosa buffa è che se li deposito in cassetta di sicurezza sono salvi, se li deposito sul conto corrente non sono salvi. Questo è l'aspetto che concettualmente ma mi che piace è quello dire. Che poi in realtà ha fatto scattare la preoccupazione, perché se uno deve fare anche l'analisi sulle banche che ci sono in giro per capire esattamente, leggere i bilanci per sapere se può aprire un conto, insomma è un po' complicato. Allora, il risparmiatore medio che in genere ha delle giacenze inferiori ai 100.000 euro, e in più se il conto è cointestato sono 200.000 euro, e qualcuno che ha delle giacenze da 100-200.000 euro, in genere c'è anche magari più conti correnti bancari, quindi sì. Parlando della grande dei milioni di risparmiatori, sì. La cosa direi che è sotto controllo, perché c'è questo limite dei 100.000 euro. Senta, le critiche di Renzi alla Germania per lei sono giustificate o no su questo punto? Voi ve le siete aggiustate le vostre banche e poi avete fatto le regole. Poteva pensarci prima, certo. Ovviamente. In secondo luogo, l'Italia non poteva aggiustare le sue banche nel modo in cui ha fatto la Germania, che comunque ha speso molti meno soldi dei 260 miliardi che si dicono, perché quelle sono in gran parte garanzie che non sono state utilizzate, quindi sì. Sono molti molti meno, ma comunque sia l'Italia nella situazione in cui era, con il debito pubblico che ha e soprattutto in quel momento quando c'era il famoso spread a 5-600, ma lei si ricorda quando certo. Ha dato la garanzia pubblica a MPS, anzi la garanzia, diciamo, i Tremonti e i Monti Bond, sembrava che stesse per scoppiare la rivoluzione, certo. Perché si diceva che lo Stato salvava i banchieri. Certo. Adesso bisogna deciderci, o lo Stato non deve salvare i banchieri, oppure non ci si può lamentare dopo. Ecco. Senta, un'ultima cosa, cosa ne pensa di una commissione parlamentare d'inchiesta? Io ho uno scetticismo, io e lei abbiamo i capelli brizzolati, diciamo così, e quindi sappiamo che le commissioni d'inchiesta partono e non arrivano. Forse... politicamente in questo momento non si può fare meno di almeno di prevederla, almeno avvocato Nicola, faccio un'ultima domanda: qual è l'errore sì. Più grave che ha commesso il governo in questa vicenda secondo lei? È stato quello di non dare l'impressione di avere la situazione non solo sotto controllo, ma di aver pienamente compreso quello che stava succedendo nel mondo bancario. E naturalmente, soprattutto nel campo della finanza, le percezioni sono altrettanto importanti della realtà. Quindi esatto. Questo fatto di aver dato l'idea di essere un po', per utilizzare un termine da giovani, groggi, sì. non ha rassicurato le persone. Ecco Mario, questo fatto delle cassette di sicurezza mi ha colpito molto. Cioè se hai 200.000 euro in cassetta di sicurezza li puoi lasciare, invece sul conto te li prendono col bail-in. Perché c'è una differenza tra il deposito e il conto corrente. Però insomma un po' strano, la stessa banca a distanza di 10 metri. L'economia è fatta, e la finanza sono fatte anche di queste strane. Grande sai. Fantasia però. Ce ne vuole, sì. Senti, però... abbiamo con noi Gianluca Verzelli, chiedo scusa per lo scontro a cui ho dovuto assistere, però è vice direttore centrale di Banca Akros. Lui è un operatore di mercato e con lei vorremmo capire cosa pensa il mercato di quello che sta accadendo. Intanto questo mercato sembra molto cambiato, tecnicamente molto, molto cambiato, sbaglio? No, lei è nel giusto, e specialmente in questa crisi della borsa recente, che è assolutamente difficilmente comparabile con quelle precedenti, emergono proprio i cambiamenti, strutturalmente tecnici. Cioè? Ce li spiega un po'? Diciamo che oramai in questi mercati l'utilizzo di alcuni strumenti sofisticati di tipo tecnico e computeristico, come le vendite o gli acquisti che vengono fatti con sistemi di trading quantitativo algoritmico, oppure la creazione di prodotti strutturati, sono difficilmente sotto controllo e rappresentano oramai una quantità, specie nei mercati diciamo più evoluti, guardiamo all'America sempre, che è il nostro, di oltre il 60-70% dei volumi negoziati. Ergo vuol dire che rispetto a quello che avevamo in mente in crisi precedente, in cui magari l'intervento umano dell'operatore, del trader, del computer poteva in un certo senso magari... Cioè i computer adesso fanno tutto da solo, se ho capito bene? L'intervento dell'uomo c'è sempre, i computer danno tutta una serie di indicazioni in base a analisi di prezzi, di volumi, analisi tecniche, analisi fondamentali, e altre tipologie di variabili che vengono emesse, che danno dei segnali, poi possono essere tradotti automaticamente in ordini di vendita o comunque ci possa essere invece l'intervento. Ma per esempio che cosa è il quantum trading? Ma praticamente è un trading che basa gli ordini di acquisto, di negoziazione e vendita esclusivamente su questi algoritmi computerizzati, quindi è il computer che dà l'indicazione di vendere molto spesso. Cioè io per fare un esempio concreto, cioè io decido una cosa, schiaccio un tasto per vendere un tot di azioni o di obbligazioni e automaticamente l'algoritmo produce delle conseguenze su tutto il mercato? Diciamo che sono tantissime le tipologie, no? E tantissimi anche gli utilizzi, c'è cioè da chi lo fa. Ci fa degli esempi per essere. Però diciamo, per capire esempio, bene. All'arrivo al rompere di determinate barriere, qualcosa che si è visto sicuramente in quest'ultima crisi, che diciamo è stata dettata probabilmente e innescata dalla vendita di titoli o di prodotti strutturati creati per i fondi sovrani, e automaticamente al rompere di certe soglie di prezzo o di livelli tecnici scattano una serie di vendite che vengono, come dire, suggerite dal computer, sia in automatico. Questo crea che cosa fondamentalmente? Quindi Verzelli, non controlliamo più gli effetti delle decisioni che prendiamo, che prendete voi che siete lì a operare? No, secondo me il controllo c'è sempre. Quello che è aumentato e con cui dobbiamo abituarci a convivere è un'estremizzazione della volatilità, cioè queste tipologie di interventi rispetto a quello che era un tempo la logica umana, accelerano sia in un senso, l'abbiamo visto però anche in questi giorni nel momento del rimbalzo dei mercati, accelerano certe dinamiche, sono molto violenti e creano ulteriore volatilità e molto spesso anche, come è successo in questa crisi, uno scostamento molto violento e netto rispetto ai valori fondamentali. Senta, in base invece a quelle che sono le necessità di mercato. Senta Verzelli, molti non credono al recupero delle sofferenze bancarie. Il mercato italiano è frenato da molti fattori. Quali sono quelli principali? Ma guardi, le sofferenze bancarie fondamentalmente si basano sull'elemento anche del tempo. Allora, più c'è una crescita economica del paese, del PIL, che migliora, e più nell'ambito di un certo arco di tempo probabilmente le banche riescono a sistemare le sofferenze. Ecco, probabilmente il nostro vero problema è la crescita bassa, per cui l'elemento tempo diventa un elemento di difficoltà a recuperare queste sofferenze. Ecco, non ma aiuta. Senta, la cessione di sovranità dell'Europa, no? Dai paesi all'Europa in materia finanziaria, è un fatto oramai necessario? Beh, mi sembra che è una strada abbastanza tracciata, una non strada si può obbligata. Continuare ad avere delle differenziazioni di impostazioni così marcate fra paese e paese, certo che poi tra il dire e il fare è tutto un altro argomento. C'è in mezzo la politica, esatto, e ci sono in mezzo le varie elezioni. Senta, il Financial Times ha scritto: sono tornati i due spettri del 2008, le banche e il debito pubblico, è così Verzelli? Beh, il debito pubblico secondo me non si è mai allontanato, il vero problema è che ce ne dimentichiamo, specialmente in una fase in cui, grazie al quantitative easing, diciamo, i prezzi dei titoli di Stato, in generale, nostri particolarmente, ma di tutti gli altri paesi, mantengono una certa stabilità, come dire, indotta da questa enorme liquidità. E quindi aleggia sempre, è un elemento che ritornerà, specie nel nostro caso, è inutile ricordarlo per l'ennesima volta, in cui siamo certo. Il paese col maggior debito ma pubblico. Ma questo lo sappiamo Grecia, purtroppo. Senta, ma per chiudere, ma il risparmio che strumenti ha per orientarsi in questo enorme caos? Perché questa è la verità. Ma guardi, il succo di quello che abbiamo spiegato prima sul quantitative trading e su tutte queste variabili legate ai derivati porta al fatto che il risparmiatore che fa da sé oggi va incontro a dei rischi maggiori. I mercati sono troppo complessi per poterli affrontare con, diciamo, l'approccio che si poteva avere un tempo e basandosi sulle proprie conoscenze. Quindi è quasi obbligatorio arrivare un pochino di più a delegare a strumenti di gestione, a operatori professionali. Adesso ne abbiamo visto in quest'ultimo periodo magari solo alcuni aspetti, diciamo, negativi nella crisi delle quattro banche e della consulenza, ma dall'altro lato io vorrei ricordare che il sistema, per esempio, di gestione dei fondi in Italia, il sistema finanziario della consulenza, ha fatto dei passi da gigante e si è molto più oramai avvicinato e parametrato a degli standard europei. Poi naturalmente in questi processi ci sono sempre. E lei cosa prevede per il futuro immediato? Guardi, ancora volatilità sui mercati? Guardi, io credo che continuerà, diciamo, il recupero, come dicevo, fra un eccesso di caduta dei prezzi che non è nei valori fondamentali, e comunque il ristabilizzarsi della situazione però sarà complesso. Queste crisi, se andiamo a guardare nel passato, prima o poi si aggiustano, però magari hanno bisogno di tempi un po' più lunghi, quindi è difficile pensare che siamo arrivati al momento in cui la crisi è passata e riparte tutto. Probabilmente avremo bisogno di tempi per somatizzare quello che è successo, che è stato estremamente violento. Grazie dottor Verzelli. Ecco, tu Pietrangelo, Verzelli, sentire un trader così, che effetto ti fa? No, è la voce del mercato. È la voce del mercato. Io penso a quello che prima è venuto fuori, e cioè che se metti 100 euro in una cassetta di sicurezza non vengono toccati, invece nel conto corrente sì, mi ha fatto pensare che la conferma dei soldi sotto il materasso certo, perché la sostanza vera è che la politica dovrebbe prendere... Ma se lui vuol mettere sotto il materasso, lasciaglielo fare. Ma la sostanza vera è che la politica dovrebbe, al netto della esibizione di Brunetto, certo, vabbè, la politica dovrebbe mettere un freno a questo. Io non le so bene queste cose, certo, ma Mario la spiega meglio. Sì, ma no, no, mi risulta che per esempio in Ungheria abbiano fatto un muro alla potenza, allo strapotere delle banche, e mi pare che l'Ungheria non sia nelle condizioni economiche dell'Italia, o no? Vabbè, Mario, sì, però, dai. Cioè, hanno cacciato il Fondo Monetario Internazionale, hanno detto alto là le banche. Vedrai che però adesso la sostanza qual è, scusami? È che sono liberi. Sono liberi, da cosa? Allora meglio indebitati e liberi. E prigionieri. No, no, meglio indebitati e liberi. Poi la voglio spiegata tutta la libertà di noi italiani. Vabbè, ma quale libertà? Mario, su queste cose miliardi di debito. Si limita. Quale libertà? Perché la libertà è quando tu hai i conti a posto. Vabbè, appunto. Senti, i conti a posto. C'è una canzone per chiudere questa situazione? No, siccome tu hai sentito il mercato, io faccio sentire il mio mercato. Il tuo mercato. Sentiamolo. Andiamo col tuo mercato. Io non creo niente. Io possecco. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblici. Mix 24. Allora, che sentiamo oggi, Pietrangelo? Arriva, eccolo. Succede che delle note improvvise, quelle di un ambulante, riescono a svegliare gli addii. Ed è successo stamattina in Piazza del Pantheon, e forse era un legionario di Roma Antica, lui era sicuramente un legionario di Roma Antica, che tornava dagli Elisi, perché le note improvvise, questa voce di un'armonica solitaria lo ha richiamato. E lei, di sicuro, apparsa tra le colonne del Pantheon, era Diana Cacciatrice, insomma. Ha telefonato Filomena Marturano stamattina e ha voluto questo brano per Domenico Soriano con una dedica. Non ci ripensare, torna da me. Mario. Sì. Noi che dove dico, andiamo? Sì. Andiamo in Inghilterra? Andiamo in Inghilterra, no, sì. No, non lo so. Andiamo. Sì. Grande Mark Knopfler, quando ci faceva parte, era il leader di Dire Straits, questo è Celtic Sing. Che facciamo? Andiamo in Inghilterra, Giovanni. Però in realtà stiamo a Bruxelles. La guardiamo l'Inghilterra, perché oggi c'è il consiglio dei capi europei, il consiglio europeo appunto, e il primo punto in agenda, come sapete, è la Brexit. Il Brexit. Sì. Il Brexit. Ci sarà o no l'accordo tra Regno Unito e Unione Europea? Sono usciti dei documenti ulteriori dopo la prima bozza di Tusk, ho visto stamattina, e insomma non è che ci sia un grande accordo. Sicuramente metteranno delle clausole per cercare di fermare l'immigrazione. Però le cose non si stanno mettendo benissimo. Stamattina i titoli dei giornali inglesi erano veramente duri. Cioè? Dal Daily Telegraph, che appunto la metteva con la domanda accordo o no, il Daily Express, che è molto pop, che diceva che 2 milioni di immigrati europei levano il lavoro di fatto agli inglesi, il Guardian, che diceva che Cameron si prepara a una battaglia a rischio, forse rischio calcolato, e il Times di Londra, appunto, che diceva che i migranti europei raggiungono i 2 milioni e questo è un colpo per Cameron. Come vedete, non la mettono giù, diciamo, molto leggera la faccenda, sono pesanti. O sì o no, insomma. Sì o no. Certo. E Cameron si gioca la testa. Ma si gioca tutto, perché se perde il referendum che fa? Però una scelta da leader. Sì, però forse è un grande azzardo. È vero che lui è anche fortunato. Però non io lo prima so, ho detto Grexit perché ho letto che in la Grecia. In Grecia sta per scoppiare la guerra civile, ma nessuno ne parla. La Grecia è la grande dimenticata della situazione. Ma tornerà subito. Ti ricordi quando dicevamo qui che l'accordo trovato dentro l'Unione Europea era un accordo di carta che poi avrebbe dovuto essere trasformato in qualcosa di politico e di azione politica? E non è capitato ancora. E ci siamo. Quindi adesso vediamo che cosa succede. Secondo me la Grecia salta, però vedremo. Spero di essere smentito. Salamino. Nomine in Rai. Nomine in Rai. Nominati i direttori di Rai 1, di Rai 2, che sono state accolte dall'opinione pubblica, dagli addetti ai lavori, dall'opposizione. Però accolte bene, però non accolta bene. No, non accolta bene. No. Quella di Rai 3, no. Perché? La rete che fu laboratorio di Angelo Guglielmi. Prendi questa mano. La rete che fu di Angelo Guglielmi, va bene dare la mano alla zingara, ma dare la rete Rai a lei, a Iva Zanicchi, proprio no. Ma Iva Zanicchi? Sì, è stata nominata direttore di Rai 3. Sì, lei. No, ma i giornali sai che non dicono mai la verità. No, come no? Insomma, no, lei è stata nominata perché combattente in prima linea sul fronte del berlusconismo. Fatto. Proprio no. Si può. E quello che hanno detto per esempio i giornalisti dell'Usigrai, hanno detto no alla Zanicchi a Rai 3, sì, poi l'associazione articolo 21, articolo 27, articolo 40, articolo 90, tutti sulla ruota di Napoli, tutti uniti a protestare contro la decisione di paracadutare Iva Zanicchi alla guida di Rai 3. Ma mi è sfuggita sta notizia. Perché tu non lo sai, io li ho visti, no? Per esempio, dov'è? È un retroscenista. No, li ho visti, li ho letti. Per esempio, dov'è il curriculum attonato, indignato e non poco arrabbiato oggi sulla Repubblica a Corrado Augias? Corrado? Sì, dov'è il curriculum? Poi gli ha fatto eco sul Corriere della Sera, sì, brandendo il braccio così. Proprio per sciogliere, come un senatore romano, sciogliere i venti all'eco. Allora gli ha fatto eco sul Corriere Claudio Magris. Ma Claudio Magris ha detto: forse ok, il prezzo giusto è un esempio di servizio pubblico, forse, poi c'è anche la questione di Dudù, il cagnetto di Berlusconi che l'ha messo in braccio, insomma una cosa. Ma dopo la sigla di ok, il prezzo è giusto, ecco, stamattina, poi dite che uno non le vede le cose, c'era una fiumana in giro tondo che stringe d'assedio il palazzo Rai in Viale Mazzini, e si riconoscono indignati tutti nel girotondo: Nanni Moretti, Sabina Guzzanti, Paolo tutti. Flores d'Arcaisi, anche il presidente della Sacra Rosa, non so come si chiami, comunque era lì. Poi c'era il leader Lega Ambiente, che non so come si chiami, ma era lì. Poi c'era un distinto Zagherbeschi. Insomma, il prezzo è giusto. Ma voi ma i Vanzanicchi. Forse è Nicol Minetti. Chi hanno nominato? Chi hanno nominato? Non lo so. Chi hanno nominato? Madonna. A me lo dici. No, insomma, lo tutti. Irene Grandi. No, chi era? No. Non lo so. Chi hanno nominato? Comunque, vabbè, non lo so chi hanno nominato, perché appunto la mia solitudine è sempre la stessa. La mia solitudine sei tu. La mia. Però certo, una cosa bisogna dirlo, se nominano la Bignardi direttore Rai 3, che ti posso dire, ministro della cultura, faranno Luca Dini il direttore di Vanity Fair. Eh beh, certo, sì, insomma, il razzismo che tutti, vengono tutti da là, poi ho scoperto. Da dove? È lì tutto quel gruppo di riviste, Condennaste, eccetera. Interessante. Vabbè, ognuno c'ha il suo humus. E comunque un humus ha una dimensione. È però, morto, vero, è morto due volte Scola. La terrazza romana ha finito di comandare. È arrivato il salotto milanese. Sono arrivati i milanesi. Io di questo non ne sarei così sicuro. Guarda che le prime due nomine sono ottime. Rai 1, Rai 2 sono ottime. Professionisti. Sì, vabbè, non però, si può mica azzeccare tutto, però è un dai, dettaglio rivelatore, è un dettaglio rivelatore, altro che mettere là l'amichetto dei servizi vabbè, segreti. Può darsi che ci sorprenda con una rete meravigliosa, ma ho saputo tutto che, è possibile, ho saputo la grazia di Stato, ho saputo una cosa, che Carrai, quello che era destinato ai servizi segreti, non là, ci fa più, no, però gli fa aprire una boutique. E come la chiama? Non lo so, dai, vai avanti, e Merletti. C'hai ancora la bolla, Mario? Sì. Dai, anche questo super classico. Non lo presento neanche, o sì? Sì, dicono di sì, va bene. Sì, Aerosmith, sì, Walk This Way, dai, senti un po'. Il conto di Calais, sai che Eurotunnel ha chiesto il rimborso a Francia e Regno Unito per la crisi dei migranti lì a Calais, un bel patatrac ancora in corso tra l'altro, e 29 milioni di euro, Giovanni, è interessante, perché come vedete ci sono dei risvolti che non emergono mai nella grande cronaca, ma poi esistono. Eurotunnel l'anno prossimo proietta ricavi per 560 milioni di euro, se interessa. Non è un'azienda che va male, anzi ha buone prospettive per quest'anno e per l'anno, prossimo. A proposito di Brexit, a proposito di Isola d'Inghilterra e Vecchio Continente. Volevo sapere se abbiamo qualcuno, il canzoniere? Ci leggi il canzoniere? Arrivo. Grazie. Basta con la pazzia, sventurato, e ciò che vedi morto impara che è perduto. Ci sono stati giorni splendidi nel sole e andavi dove lei ti conduceva, l'amata come non sarà nessuna, e avvenivano cose deliziose che tu non volevi e lei non disvoleva. 80024 0024 numero verde, 349-238-6666 l'SMS, ma c'è un vincitore che aspetta da ieri, perché l'abbiamo già fatto ieri. Nicola, buongiorno. Buongiorno Giovanni. Dica tutto, sei divertito stamattina un po'? Guardi, Brunetta ha fatto spettacolo. Sì, uno spettacolo di chi. Tira sul morale la mattina. Insomma. No. Infatti, sono d'accordo. Allora? Allora è il grande Catullo, è tratto giusto dai Carnina, giusto, uno dei primi, l'ottavo. Forse. Ma che bravo! Che fa Nicola? Insegna? Queste no, sono reminiscenze del liceo classico di 50 anni fa. Accidenti. Quando funzionava. Io anche adesso sono ormai un ingegnere in pensione e quindi insomma ecco, però ho ancora il gusto della latinità e del greco. Che cioè, bello! Che bello, bene, auguri allora. Grazie. Auguri, c'è ancora una pubblicità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Mix 24. Dico una verità, io a un certo momento, dopo quel che ho passato, le botte che ho avuto, tutte le cose, ho pensato, ma forse io rimango qua. Mi sposo con questa bella ragazza. Di me diranno che sono morto, prima sperso, poi morto. E io finisco la mia vita qui, facendo una vita semplice, senza complicazioni, senza politica, senza niente. E io forse. E poi da piemontese fesso, testardo, io ho detto no, io devo andare. Un piemontese fesso e testardo, e invece Amedeo Ghie è una leggenda. Il Lawrence italiano, un guerrigliero temerario che per mesi combatte le forze inglesi in Eritrea con le sue truppe indigene. Per loro è il comandante diavolo. E ancora un cavaliere da concorsi olimpici, uno scaltro agente segreto e un brillante diplomatico. Amedeo Ghie, il mistero di un uomo dai mille volti, il coraggio di chi non si arrende, il segreto di un amore proibito. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Beh, pronto? La regia. Allora, Mario, c'è ancora un aggiornamento? Sì, c'è un po' di musica e un aggiornamento e chiudiamo. Non ci abbiamo la musica. Non ci abbiamo la musica. Non ci abbiamo l'aggiornamento. Intanto ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto stamattina, perché ho visto una grande partecipazione al dialogo con Brunetta e mi fa piacere che ci sia. Ah, quello è dialogo. Dialogo, domanda risposta. Hanno messo della musica, Giovanni. Vabbè. Vuoi l'aggiornamento? Aggiorna. Interessante. Allora, strage di San Bernardino negli Stati Uniti. L'FBI chiede a Apple di scardinare i codici dell'iPhone, sì, di uno degli attentatori. Apple dice no. Adesso è uscita Google che dice: noi appoggiamo la risposta di Apple, sarebbe un precedente pericoloso scardinare i codici. E quindi hanno deciso di prendersi lo Stato, il mondo. Non danno più informazioni, guarda, a nessuno, se lo tengono. Mi sembra una strada molto molto complicata. È grande disputa questa. Però è anche la controprova che l'FBI non riesce ad aprire un telefonino. Scardinare i codici non è una adesso, cosa semplice. E adesso col professor Roberto Bernabei, come sempre, commentiamo le notizie più importanti di medicina apparse sulle riviste di tutto il mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. British Medical Journal, gennaio 2016. Il mantenimento del peso attraverso l'introduzione di flavonoidi nella dieta. Il dato inquietante è che l'obesità sta aumentando. Sta aumentando un pochino di più nei paesi del Nord Europa, segnatamente l'Inghilterra, dove addirittura tra il 95 e il 92 l'obesità è raddoppiata tra i ragazzi, passando dal 3 al 6%, e nelle ragazze dal 5 all'8%. E questo problema dell'obesità è un problema che quindi un po' ci interessa tutti. Noi, diciamo, abbiamo la dieta mediterranea, quindi ci difendiamo. Beh, le cose anche da questo punto di vista non vanno tanto bene, perché sempre più in Italia bambini e adolescenti consumano meno frutta e meno verdura. Nel 2012 il 37% dei ragazzi diceva di mangiare prodotti ortofrutticoli a ogni pasto, percentuale che è scesa intorno al 30%. Lo stesso vale per chi introduce nella propria dieta alimentare frutta e verdura una volta al giorno, percentuale scesa dal 40 al 35%. Quindi va male, nel senso che la dieta mediterranea non è rispettata. E allora qual è l'unica difesa? Introdurre questi flavonoidi. Che sono i flavonoidi? Flavonoidi sono gli alimenti che contengono frutta e verdura come mele, pere, fragole, peperoncino, il famoso peperoncino tipico della nostra dieta soprattutto al sud, vino rosso, cipolle, anche in piccole quantità. Si è visto da questo studio che chi è che fa nella dieta, introduce nella dieta questi alimenti che contengono i flavonoidi, sono gli unici che mantengono il peso. Chiedetevi allora cosa mangiate tutti i giorni e, soprattutto, ricominciate, se avete smesso, a perseguire la dieta mediterranea con, appunto, frutta e verdura. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ci presenta oggi? Oggi una canzone per chi aspetta la felicità, che viaggia su un treno nella notte, passa sempre in fretta e non si ferma mai. Se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, quel doloroso rumore, a terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tenere su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.